Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero insieme fino a mezzogiorno per raccontarvi, tra poco vi dirò che cosa, innanzitutto i numeri, gli sms, vi ricordo 349 238 6666, se volete raccontarci come avete festeggiato e come festeggerete, quindi già state per capire di cosa parleremo. E poi il numero verde invece vi servirà perché alle 11.30 ci sarà il mistero in 24 minuti, come sempre la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su librerizzoli.it. e devo dire che siete molto bravi ultimamente, vi portate a casa un sacco di soldi, complimenti. Vediamo un po' come andrà oggi, dovrete dare la risposta giusta, può essere una notizia, un personaggio, qualcosa che ci appartiene di conosciuto ovviamente, e per arrivare alla soluzione dovrete ascoltare gli indizi musicali, più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. Ma si parte da 1000 euro e il numero verde è questo, potete prenotarvi anche subito 800 24 0024. Oggi spero che abbiate la vostra coccardina tricolore ovviamente, perché parliamo del 150esimo, ovviamente lo facciamo così, in un modo forse diverso dal solito. Cercheremo di capire che cosa ci ha uniti, cosa ci ha disuniti, la lingua, internet, come si sta comportando la radio, la televisione, la pittura, la musica e quant'altro, insomma che cosa ci rende italiani. Sicuramente la partecipazione, ce n'è stata tantissima e qualcuno forse non se l'aspettava, io onestamente sì. Ho sempre creduto in cuor mio che le vie e le piazze sarebbero state piene, e così è stato. Sono molto felice di questo e devo dire che è stato anche bello vedere le bandiere appese su tantissimi balconi. C'era anche molto vento in quei giorni, per cui spesso erano un po' arrotolate, però si vedevano, ce n'erano tante. Mi veniva in mente quando ero piccolo e all'asilo si costruivano le bandiere italiane, non so se vi ricordate, no? Poi le costruivamo noi, andavamo in giro con sta bandierina, all'epoca si capiva poco. Oggi invece ritengo che sia stato un bel esempio per cominciare a capire chi siamo. E poi adesso però è più facile, tutto più facile, perché con internet ormai anche il bianco, rosso e verde sono colori precisissimi. C'è il numero di Pantone esatto che va utilizzato per i tre colori, così anche l'RGB, quindi il rosso, verde e cos'è, magenta, insomma. Adesso devo tradurre dall'inglese all'italiano contemporaneamente, faccio fatica, comunque sia i tre colori principali, e per capire insomma come devono essere messi insieme perché i tre colori alla fine risultanti siano esattamente questi, quindi sono anche identiche tutte le bandiere. Una volta invece avevano un po' i colori simili, simil verde, simil rosso, ma il bianco rimaneva bianco. Comunque sia, di questo parliamo, e per cominciare alla grande ho scelto una canzone che forse non ricorderete. A me è sempre piaciuta molto, di un grandissimo compositore italiano, e ha scattato una fotografia del nostro paese diversa dal solito. I come gli italiani, i come gli italiani, i come innamorati, i come idioti, i come più furbi, insospettabili, i come italiani, incorreggibili, i come incazzati, incorruttibili, i come impossibile. Devo dire che con Cato questa canzone è riuscito davvero a ricostruire un italiano vero, nel senso che il ritratto è precisissimo e così in alcuni punti ha segnato esattamente quello che siamo, insomma che siamo davvero, perché poi l'anima è un po' quella. 10-15 minuti di aggiornamenti sul traffico e poi il primo ospite della puntata. Il riposo del guerriero. Ecopolis Expo & Conference, la città sostenibile. Fiera Roma, 23-25 marzo. Vi presenta Strade in diretta. Lungo sul tratto bolognese della 14 Adriatica ci sono delle code a causa di un importante evento fieristico tra il ramo di Casalecchio e l'uscita per la fiera in direzione Ancona. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria rallentamenti a causa di lavori tra Spezzano Terme e Tarsia in entrambe le direzioni. Ancora per lavori ci sono dei rallentamenti verso la Francia sulla 10 dei Fiori tra Ventimiglia e il confine. Traffico scorrevole sul resto dei percorsi. A chi viaggia in treno ricordiamo che fino alle 11 circa è sospeso il traffico ferroviario sulle linee Bologna-Piacenza e Parma-La Spezia per consentire la rimozione di un ordigno bellico nel comune di Parma. Non sono previsti autobus sostitutivi e ritardi dunque possibili fino a 60 minuti circa. Per il momento è tutto, Strade in Diretta torna tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Lo so perfettamente, la radio non si vede, quindi dovrete, con l'ospite che abbiamo tra poco, immaginare. Cercate magari di chiudere gli occhi e di ricordare i quadri di cui stiamo per parlare. Sono con Flavio Caroli, professore ordinario di storia dell'arte moderna presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Professor Caroli, buona domenica. Grazie mille a voi. Grazie a lei. Professore, ha appena pubblicato Il volto dell'amore da Mondadori e cominciamo proprio con l'amore. Amore della patria, si dovrebbe dire, no? In questo 150esimo, dobbiamo partire da lì. E allora con lei volevo così fare un excursus su quello che le immagini, insomma, ci hanno raccontato e in qualche modo ci hanno anche uniti, anche se a volte ce lo dimentichiamo. Certamente. Vogliamo partire da Hayez a questo punto, che forse... Sì, certamente, ma sai, più in generale si tratta di vedere proprio il ruolo dell'Italia nel campionato, diciamo pure, delle nazioni del mondo, insomma quelle europee, e poi da un certo momento in poi ci mettiamo anche dentro gli Stati Uniti, e il ruolo dell'Italia è assai più significativo di quel che sembri, ecco, questo un po' come premessa. Purtroppo. Appunto. Hayez è proprio l'inizio, insomma, cito per esempio il famigerato bacio, che è un po' il simbolo stesso della Unità d'Italia, in quattro versioni. Hayez l'ha ridipinto per quattro volte, ma la versione più importante è la Pinacoteca di Brera, ed è un quadro anche drammatico, insomma, perché c'è questo abbraccio tenerissimo che però avviene fra due vie d'uscita, insomma, fra una scala e una porta avvolta dall'oscurità, quindi lascia intendere, insomma, un breve incontro, perché lui è stato richiamato ai doveri civili e militari, e quindi, insomma, la tenerezza di un saluto. Ecco il, tra l'altro, la più non di un addio. La piuma sul cappello ci ricorda infatti il suo dovere, e il bacio è davvero particolarmente appassionato. Hayez, voglio ricordare, è veneziano, se non mi sbaglio. Sì, è veneziano, ma è poi vissuto a Milano, quindi le sue marachelle, perché ne ha fatte parecchie, le ha poi fatte a Milano. Ecco, perché mi diceva che ha dipinto anche non soltanto il bacio, ma si è spinto anche un po' oltre. Assolutamente, perché lui è, capisce, questo educatissimo pittore neoclassico, che però, insomma, già la sua sensualità si vede anche dai quadri classici o romantici, insomma, che dir si voglia. Ma a un certo punto, una quindicina d'anni fa, è saltato fuori un suo taccuino di disegni dei suoi amori con una modella che si chiamava Carolina, che avvenivano nei pomeriggi a Brera, ed è proprio un Kama Sutra, ma un Kama Sutra occidentale, cioè invece il Kama Sutra ha sempre un che di scientifico, insomma, o di religioso, ecco, invece Hayez è proprio scatenato, è quasi un pornografo, insomma, è quasi scatenato nel descrivere le posizioni che assumeva, appunto, con la sua adorata modella. Ma poi non sono mai state pubblicate, sono state ritrovate anni dopo? Un libro, appunto, 15 anni fa è uscito un libro, perché è stato trovato questo taccuino, il taccuino capisce, viene dalla famiglia di lei. Esatto, lui non ha mai trasformato in quadri, in opere, insomma, fino a prima visti. No. Capisce, viene dalla famiglia di lei, cioè lui evidentemente ha fatto i disegni eroticissimi e li ha regalati a lei. Lei li ha tenuti, per via ereditaria è arrivato e poi è stato pubblicato. No, è che nei suoi quadri compiuti, ecco, trapela la sua straordinaria sensualità, ma qui non si tratta solo di sensualità, si tratta proprio di descrizione precisa di atti erotici. Una sorta di vademecum per chiederle cosa avrebbe voluto fare, insomma, credo che possa aver funzionato in questo modo. Andiamo oltre di qualche anno, siamo a Segantini, Segantini che, non so, l'amore in Segantini è particolare. Sì, assolutamente, ma Segantini, vede, questo è proprio il caso di un pittore grandissimo che il mondo intero ci riconosce, lo mette proprio fra nel line-up, insomma, in testa alla classifica dei grandi valori del simbolismo europeo, e noi invece lo sottovalutiamo. Segantini era questo uomo straordinario, scorbutico, scontento, che è nato già in Trentino, ecco, che poi a un certo punto comincia ad andare sui monti, in Engadina, soprattutto l'ultima fase, ma sempre più su, per cui alla fine della sua vita sale in questo rifugio a 2700 metri, dove lo coglie una peritonite fulminante, insomma, lì non c'è niente da fare, e naturalmente fra i primi a soccorrerlo c'è questa straordinaria donna, la moglie, con la quale è vissuto, insomma, fin da ragazzo, ecco, c'è stato un amore, una fedeltà esclusiva, quindi è straordinario anche questo rapporto d'amore, e ne ha fatto appunto uno dei protagonisti del simbolismo europeo. Poi arriviamo alle donne allungate, chiamiamole così, quelle di Modigliani. Capirà anche questo. Nel mio libro dico e sostengo che, guardi, ci faccia caso, le avanguardie del fine XVIII, fine dell'Ottocento e di tutto il Novecento non sono state sono state pochissimo interessate all'eros appunto, non l'impressionismo, non poco il simbolismo, poi, e men che meno poi dopo futurismo, cubismo, metafisica, insomma, c'è ben poco. Si pensava ad altro, certo. Pensavano ad altro, sì. Appunto, pensavano ad altro. Ecco, invece noi italiani abbiamo ceduto, per così dire, ai francesi un pittore come Modigliani, che è uno dei grandissimi erotisti del XX secolo, ma questo erotismo gli deriva proprio dalla cultura italiana, cioè da questo segno toscano, insomma, che deriva dal manierismo, un disegno proprio tagliente, acuto, e in primis proprio legato al desiderio, ecco, al rapporto con il corpo femminile. E ricordo che Modigliani è morto, non aveva neanche 35 anni, proprio, come dire, di tubercolosi, ma anche di eros, ecco, pare che abbia conosciuto un parossismo di eros, ecco, negli ultimi giorni della sua vita. Come è successo a molti artisti, fra l'altro. E io direi anche Giorgio De Chirico, anche se forse l'amore per De Chirico è qualcosa di completamente diverso dagli altri nella sua rappresentazione. Altro, qui entriamo proprio nei misteri, beh, insomma, non per nulla De Chirico ha fondato la pittura metafisica, ecco, entriamo nei misteri della incomunicabilità, perché De Chirico, per esempio, quando dipinge il suo famigerato quadro Ettore e Andromaca, appunto allude a un rapporto d'amore, ma che delega e che trasferisce in due manichini, è proprio questo senso, ecco, di estraniazione. E questa sua idea sarà talmente importante che viene ripresa per esempio dal pittore surrealista Magritte, sì. In un'immagine che io metto nel mio libro, nel quale si vedono questi due amanti che si baciano, e se non che tutti e due hanno infilati sulla testa delle coperte che impediscono loro di avere un vero contatto fisico, insomma, il senso dell'incomunicabilità. Ecco, quando eravamo ragazzi e per Antonioni si parlava dell'incomunicabilità, tutto questo è cominciato proprio con De Chirico e poi con Magritte. Ecco, lei nel libro chiaramente non parla soltanto dell'Italia, ma di tutto il mondo, ovviamente, nel volto dell'amore. Certo. Io avevo una curiosità che è questa: nell'arte figurativa l'amore lo troviamo di più in Italia, o ci sono altre nazioni che hanno dedicato ampio spazio a questo sentimento? No, assolutamente, questo è proprio sentimento universale, semmai ce ne fu uno, proprio perché è un primario della vita di ogni uomo. No, quel che c'è da dire è che la pittura ha avuto un'arma in meno rispetto alla letteratura o al cinema, cioè non ha avuto la dimensione del tempo, e lì la pittura si è dovuta giocare tutto in un'immagine persona, in un'immagine secca, che perciò doveva essere tanto più potente, ed è per questo che, insomma, in larga misura la pittura ha giocato molto sull'aspetto erotico, sull'eros, proprio perché è quello principalmente devoluto, dedicato all'occhio, insomma, non per nulla si dice voyeur, no? Di qualcuno che guarda la bellezza del mondo, ecco. Certo, e oggi invece dove siamo per chiudere in qualche modo il cerchio, se possiamo? L'amore dove è rappresentato nell'arte figurativa? Dunque, beh, io chiudo il mio libro con un'immagine, proprio anche un po' come dire, scherzandoci un po' sopra, di un pittore famosissimo, un artista famosissimo che si chiama Jeff Koons, americano, che è stato il marito di Cicciolina, di Ilona Staller in altri tempi, e quindi ai tempi ha dedicato opere erotiche, sculture proprio erotiche che rappresentavano i loro amplessi. Ma io non ho voluto pubblicare quelli, ho voluto pubblicare un'opera che Koons ha fatto negli ultimi tempi, che è un grande cuore di plastica, e questo cuore di plastica è stato poi conteso dal mercato, pensi lei, a decine di milioni di dollari, che naturalmente non ci interessa per nulla, però è significativo. Voglio dire, siamo in una dimensione così consumata e consumabile, ma la verità è che invece poi l'amore è tuttora il sentimento primario, più violento e più decisivo per la vita di tutti, insomma. E allora alla fine mi pongo una domanda nel mio libro: ma come sarà l'amore del futuro? Mi dico questo, insomma, come sempre dipenderà dal grado di felicità che l'uomo saprà trovare nel rapporto con il proprio partner, cioè in colui che deve riempire i buchi della sua psiche, ecco, turare le falle della sua psiche. È sempre andata così e verosimilmente andrà così anche in futuro. Naturalmente le modalità cambiano, ma i sentimenti primari restano sempre. Ecco, quindi diventa anche un augurio per tutti, ovviamente, perché sarebbe straordinario poter riempire davvero questo vuoto. Certo. Flavio Caroli, quello non decade mai, consumabile. Il volto dell'amore, Mondadori, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Parliamo d'Italia in questa puntata del Riposo del Guerriero. Vi do il numero per gli sms, perché stanno arrivando i vostri messaggi. Vorrei sapere se, per esempio, avete appeso la bandiera fuori al balcone, oppure se siete andati anche voi per le vie o in piazza nelle varie città il 17 marzo scorso. Insomma, cosa avete fatto? Se vi sentite anche questa festa addosso. Il numero per gli sms 349-238-6666. Io prendo spunto solo da un messaggio che comincia così: l'incipite è: io non mi sento italiano. Ma io mi domando come uno può dire sono italiano, però non mi riconosco in questa cosa, ecco, che fa un po' parte degli italiani. Però come si fa a non sentirsi italiano? Allora la mia domanda diventa: e cosa ti senti? Punto di domanda. Tedesco, francese, americano, cioè, perché uno se non sente italiano cosa si sente? Marziano? Non lo so, è semplicemente una curiosità, non capisco, però vediamo un po', ecco, se riusciamo a mettere un po' d'Italia in giro per il mondo. L'abbiamo sentito, risentito ovviamente, Armando Torno, ciao, buona domenica. Domenica a tutti. Non potevo che iniziare così. Tu hai dedicato una puntata, anzi forse più di una, proprio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, raccontata attraverso la musica. Ricordo questa sera alle 21, Musica Maestro. Io volevo partire da questo nuovo database di operabase.com. È un sito che raccoglie i numeri, perché i numeri ci dicono molto. Certo. Allora, parliamo di opere. Le opere vengono rappresentate innanzitutto in Germania. Ho letto 7.892 repliche in Germania. Sì. La Germania, diciamo così, ha delle rappresentazioni più forti, ha un pubblico più attento e quindi chiaramente è favorita nelle rappresentazioni rispetto all'Italia, che molte volte o non ha pubblico oppure ha tagli, ha problemi. Ecco, noi ne abbiamo 1206 come Italia, siamo al quinto posto dopo i francesi, che però non si discostano molto, 1261. Ma la cosa che così mi stupiva è il fatto che in Germania siamo a 7892. 1942, al secondo posto gli Stati Uniti con 1935, quindi molte, molte, molte di meno. Gli Stati Uniti sono molto, molto, molto più grandi. Certo, teniamo presente però che gli Stati Uniti non hanno sul territorio la diffusione di teatri, una presenza di teatri come l'abbiamo noi o la Germania o la Francia. Cioè c'è il Metropolitan che indubbiamente rappresenta un punto di riferimento anche per il repertorio, perché il Metropolitan funziona praticamente 330 giorni all'anno. Si può dire anzi che le rappresentazioni del Metropolitan siano difficili da battere, però chiaramente gli Stati Uniti sono grandi e in alcune città il teatro è soltanto un lusso, una stravaganza, un fatto, diciamo così, per un'elite, mentre l'Europa, che è la culla del teatro, la culla dei musicisti, chiaramente ha dei vantaggi rispetto a questa immensa congerie di stati. Non dimentichiamoci nemmeno che però gli Stati Uniti furono anche degli importatori di musica già nell'Ottocento. Ad esempio, visto che sono i giorni dell'Unità d'Italia, il nostro Maroncelli, quello descritto da Pellico, nelle mie prigioni fu il nostro ambasciatore per Verdi negli Stati Uniti. Da Ponte portò le opere italiane di Mozart e via di questo tono. Gli Stati Uniti accolsero sempre con gentilezza, diciamo con interesse, poi anche data la presenza di, diciamo così, multiculturale, multietnica, la musica europea, e ovviamente ne decretarono in taluni casi il trionfo, come per esempio furono gli Stati Uniti a decretare il fatto che la Carmen di Bizet fosse l'opera a un certo punto più rappresentata della storia. Ecco, ciò non toglie che la nostra tradizione, soprattutto guardando a quella del Risorgimento, potrebbe essere leggermente più intensa, forse era il caso di organizzarla meglio per queste celebrazioni. Abbiamo per fortuna alcune aree, alcuni momenti di Verdi, che sono state però ripetute in talmente tante occasioni che effettivamente hanno permeato l'Italia, ecco. In effetti è così. Comunque bisogna dire che il compositore più rappresentato in assoluto nel mondo è proprio Verdi, e così anche in Italia, almeno nell'ultimo periodo, e abbiamo anche Rossini al quinto posto, Puccini al terzo, quindi nei primi cinque posti ci sono tre italiani e due tra l'altro che riguardano proprio questo periodo di cui stiamo parlando oggi, cioè Verdi e Rossini. E quindi parliamo così proprio di, in questi 150 anni, la musica, come ha unito l'Italia, Armando? Se l'ha fatto, ovviamente. L'Italia è stata unita dalla musica, non dimentichiamolo che prima degli incontri dei politici, prima delle battaglie, si discuteva la scala dell'Italia unita, cioè un coro di Verdi aveva già fatto lo spirito nazionale. La censura si accanì prima sui cori, sulle opere, sulle parole di Verdi, che non contro le idee mazziniane o altro. E non dimentichiamoci che l'Italia diventa tale quando al palco reale della Scala si affacciano Vittorio Emanuele II e Napoleone III. Allora si capì che gli austriaci non c'erano più. E anche gli austriaci, per dimostrare di essere a Milano, nell'ultimo viaggio del 1856 di Franz Josef, l'imperatore, viene alla Scala, organizza un ballo, si affaccia al palco reale. Ecco, non dimentichiamoci che i teatri presenti su tutto il territorio nazionale sono, diciamo così, un po' anche il termometro, la culla e per molti aspetti anche il pensatoio della nostra unità nazionale. Questo però dobbiamo anche vederlo sotto diversi aspetti, perché un compositore come Verdi era in contatto con Mazzini, era a Parigi quando scoppiarono le Cinque Giornate, si sentì quasi di correre a Milano per vedere cosa stava succedendo. Poi, per carità, quando arrivò a Milano, sulle citazioni appunto di Mazzini, scrisse un coro per voci sole che adesso è stato ripreso, non è bello assolutamente, le opere molte volte affrettate di Verdi sono, possono essere dei capolavori, ma quel coro gli riuscì male. Si intitola Euterpe Patria, su parole di Mameli. Devo dire che insomma è un po' deludente, preferisco il Nabucco, preferisco altri cori, magari anche tratti da opere minori. Però Verdi è l'unità nazionale, poi con un nome che ebbe fortuna, perché Verdi sono gli iniziali Vittorio Emanuele Re d'Italia, quindi veniva scritto sui muri, quindi c'era un entusiasmo. Rossini invece il sentimento nazionale lo ebbe, ma solo in parte. Rossini, non dimentichiamoci, era amico di Metternich, per le riunioni della Santa Alleanza tenute a Verona scrisse anche delle cantate. Metternich lo invita a Vienna e Rossini trionfa a Vienna. Verdi no, è distante, è lontano, è più vicino ad altri sentimenti, però entrambi hanno questo senso nazionale. Quando Rossini si ritira a Parigi, ospita molti dei nostri, anche dei nostri esuli, di persone che in qualche modo hanno difficoltà, insomma, con la politica italiana. Tutti contribuirono in un modo o in un altro a fare questa Italia. La musica contribuì in un modo particolare, direi. Senti, poi a un certo punto è arrivata la radio, chiaramente molto prima della televisione, e quindi la musica, che forse prima era per pochi, nel senso che era molto costoso andare a sentire le opere, per cui, e poi è diventata qualcosa invece che ha potuto appartenere un po' a tutti. E la musica classica, e tornando proprio oggi, a 150 anni da là, che momento sta vivendo secondo te nel mondo proprio in generale? Io dico, ad esempio, per quanto riguarda le rappresentazioni sempre operistiche, i numeri ce li ho di quello, la prima città italiana a comparire nell'elenco è al 54esimo posto ed è Milano, segue Roma al 71esimo. La musica classica che periodo sta vivendo oggi? Ma dunque, la musica classica direi che oggi sta vivendo momenti abbastanza difficili per via della crisi economica che ha imposto dei sacrifici ai teatri, e quindi vuol dire che non ci sono più, diciamo così, quelle sostanze superflue che un tempo servivano anche per invitare magari con una certa disinvoltura un direttore, un cantante, una situazione. È davvero solo quello, non è anche un fatto anche culturale? C'è una crisi culturale, una crisi strutturale accanto a quella, e una dipende molte volte dall'altra, perché se non c'è gara, se non c'è, diciamo così, confronto, molte volte la crisi arriva da sola. È un po' come quello che si mette in casa e cova l'influenza. Diciamo pure poi che c'è indubbiamente in questa fase attuale, noi abbiamo una capacità, una possibilità di diffusione che è incredibile. La radio può trasmettere per un'intera giornata, ma anche pensiamo a quello che fa internet, tutta la musica registrata, i mille modi che ci sono per diffonderla. Sì. Sovente non abbiamo magari quell'idea, quella musica che in qualche modo incarni il sentimento di una nazione. Oggi siamo più tentati di vederlo nella musica leggera, nel motivo magari di un festival, oppure nel motivo di un certo complesso, mentre diciamo così, se nell'Ottocento un'area di Verdi diventava di dominio comune grazie magari agli organetti di Barberia, ma per dire, un'opera di Verdi cantata alla Scala o alla Fenice o al San Carlo una sera, il giorno dopo era fischiettata dai garzoni e dei panettieri, grazie proprio a questi organetti di Barberia che l'avevano già pronta, e quindi tutta la gente la poteva ascoltare. E quindi è chiaro che il messaggio di Verdi, che era un messaggio colto, un messaggio tratto da Shakespeare, da Hugo, meditato, che so io, lavorato, concepito, e diventava anche popolare. Oggi direi che la musica colta non riesce più a parlare al popolo, e tanto più che la musica contemporanea ha sì un pubblico, ma non è tutto il pubblico. I grandi numeri li ha soltanto una certa musica leggera, quella musica che chiaramente molte volte consideriamo di consumo o d'altro. Poi è chiaro che in questa musica considerata di consumo ci sono delle eccellenze, perché non dimentichiamoci che anche la musica leggera può dare un contributo e ha forti sentimenti. Sì, che poi tra virgolette la musica è sempre stata di consumo, perché veniva prodotta per guadagnare anche dai musicisti, per cui comunque non è che non pensiamo che le composizioni venivano fatte semplicemente per puro spirito così. Ma tu dicevi la radio, ecco, è impressionante ad esempio pensare come la radio cambiò l'immaginario proprio così dell'ascoltatore. Ad esempio, grazie alla radio si sentì per la prima volta la voce di Puccini da New York, e Puccini disse una frase, disse delle cose semplicissime, ma fece un'enorme impressione proprio sul pubblico degli ascoltatori, che sentiva la voce del maestro magari per la prima volta e sentiva magari un'aria di Puccini. Puccini, non dimentichiamolo, ha dei fans che sono molto più accaniti di Verdi e di Rossini, perché proprio si può dire che taluni atteggiamenti pucciniani corrispondano a una malattia, ma questa è una polemica o altro. Però Puccini, che è amato in tutto il mondo, rappresenta un'italianità particolare in tutto il mondo e ha dei fanatismi particolari. Ecco, pensate di sentire Puccini alla radio, un po' come sentire Marconi o sentire, che so io, un grande scienziato, il capo del governo. Erano fatti che lasciavano una traccia nell'immaginario collettivo. Certo. E quindi la musica, poi non dimentichiamoci che l'Italia, che era un paese estremamente melomane, grazie alla diffusione della radio, soprattutto negli anni 30, negli anni 40, cominciò ad ascoltare le opere dal vivo, quelle che un tempo poteva ascoltare soltanto attraverso un viaggio. Quindi anche nelle campagne arrivarono direttamente quelle, diciamo così, quelle musiche che un tempo erano soltanto ripetute, si erano solo sentite da un'altra persona, magari che stava lavorando con... Chissà quindi quanto storpiate anche poi invece finalmente. Cose terribili, dei cambiamenti terribili, però il sentimento della musica è anche questo, eseguita bene in teatro e poi goduta da tutti, guai se non fosse così. Indubbiamente. Ecco, la radio riportò un po' la purezza del musicista alle orecchie di tutti, ecco. Ecco, spero che in questo 150esimo anno venga riportata un po' alle orecchie di tutti l'opera, perché mi auguro che durante quelle celebrazioni si riproponga sempre più spesso, allora ci si possa avvicinare e magari anche amare. Armando, intanto ti ringrazio molto, stasera alle 21, Musica Maestro, buona domenica. Buona domenica a tutti. Grazie. Aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare di questo. Ho scatenato un diluvio di messaggi, adesso cercherò di leggerli tutti, sono tantissimi, quindi perdonatemi, prenderò qualche spunto da voi, ma parleremo tra poco proprio di celebrazioni e anche di come la radio e la televisione ci hanno cambiati e speriamo uniti. Il riposo del guerriero. Molti di voi, sto leggendo, hanno appeso le bandiere tricolore, ovviamente, chi anche più di una, e poi però arrivano anche messaggi tipo appeso la bandiera e poi amo il territorio, la cultura, il cibo, il paesaggio, però cosa c'entra questo con lo Stato, le bandiere, gli inni, gli eroi? Beh, fanno parte proprio di un'appartenenza. Allora, Alberto Melloni, buona domenica. Buona domenica a lei. Ma è difficile, no, voglio dire, è difficile unire questi italiani a 150 anni dopo, non è così semplice. Molti dei nostri ascoltatori scrivono: no, non mi sento italiano, oppure amo questo, ma cosa c'entra questo con la bandiera? Cosa c'entra questo con... Noi abbiamo avuto un percorso di storia nazionale di cui adesso ricordiamo volentieri, anche con un certo orgoglio, degli inizi, ma che è stato un percorso complesso. Il nostro è un paese nel quale il fascismo si è preso tante cose e ha reso praticamente inservibili per molti anni, forse stanno finendo, alcune cose che negli altri paesi erano elemento comune. Appunto la bandiera, il patriottismo, il nazionalismo, questo è valso per noi, è valso per la Germania, che siamo paesi nei quali quelli che erano i simboli nazionali sono stati usati in un modo tragico, drammatico, razzista. E infatti arrivano proprio, certo, arrivano messaggi che parlano proprio di questo. Intanto Alberto Melloni è storico e fa parte anche del Comitato dei Garanti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Allora, durante quest'anno che cosa accadrà, Alberto? Dunque, il Comitato dei Garanti si è trovato in una condizione un po' particolare dal 2008 in poi, perché l'idea è stata quella di fare queste feste senza spendere dei soldi, cosa che, come sa qualsiasi persona che voglia fare un compleanno, è una cosa abbastanza complicata. Per cui qualche soldo è stato messo in una serie di opere pubbliche che dovevano essere i grandi monumenti che ricordavano il 150enario, così come fu per il Vittoriano a Roma. Per il centenario dovevano essere il Palazzo del Cinema, l'Auditorium a Firenze, il restauro della Venaria, e il teatro ad Isernia, l'aeroporto a Perugia, che erano cose che dovevano avere un significato, vuol dire, memorabile sul piano della visibilità pubblica. E poi sono stati fatti invece, sempre dal governo con i suoi soldi e nostri, alcuni restauri nei cosiddetti luoghi della memoria. Ci sono state scelte un numero molto piccolo di località che erano in condizioni miserevoli e sono state restaurate, e sono state Caprera, Marsala, il Volturno, la casa di Mazzini a Pisa, lo scoglio di Quarto, a Genova, da cui partirono i mille, dove c'era un simpatico baretto, una rotonda sul mare che occupava lo spazio di quel momento così importante della storia italiana. Il resto, come è normale che sia in Italia, l'ha fatto la buona volontà, lo stellone, l'arte di arrangiare. Degli italiani, ecco, che noi abbiamo degli italiani, sempre. Questa certo. È proprio la cosa più classica che ci sia. Per cui, non improvvisamente, però con un ritmo sempre più accelerato, noi abbiamo visto crescere proposte di mostre, di eventi, di lezioni, di occasioni, di appuntamenti, di celebrazioni, di feste, di tutta una serie di cose che mi sembra sono state estremamente significative e dove alla fine c'era una grande fame di questo. Io ho fatto un'esperienza personale molto sorprendente dal mio punto di vista. Io avevo proposto a marzo dell'anno scorso che si facesse la notte bianca, rossa e verde del Comitato dei Garanti, cosa che è stata messa lì e si è deciso che la si faceva senza sapere bene cosa sarebbe accaduto. Dopodiché con la RAI e l'Istituto Luce avevo preparato un rullo che cercava di raccontare in 6 canzoni e 6 spezzoni le esperienze fatte da tutte le generazioni di italiani, quella di non riuscirci mai, di vincere, di perdere, di ridere, di essere diversi e di essere solidali. E ne è venuto un filmettino di 18 minuti a rullo, appunto, che doveva arredare le piazze d'Italia. Bene, fra una ragione e l'altra è successo che nell'arco di 15 giorni 2800 comuni l'hanno chiesto, l'hanno proiettato in piazza, in consiglio comunale, alla scuola media, fino a un paesino della Bresciano, di cui non mi ricordo il nome, dove il sindaco non l'ha voluto e il parroco l'ha proiettato dalla chiesa sul municipio. Don Camillo Peppone alla fine, senti. Allora, sì, con un Peppone di certo. È un esatto. Don Camillo patriottico, a parte un po' invertite rispetto alla norma delle cose. Esatto, senti, ma chi volesse vedere questo filmato straordinario, da quello che ho capito, dov'è possibile? Su internet, sul sito ufficiale? C'è dappertutto, si chiama Le Unità degli Italiani, okay. È sul sito della Repubblica, del Corriere, e sul sito della Fondazione per le Scienze Religiose che l'ha prodotto, lo si trova con Le Unità degli Italiani, lo si trova a parte molto facilmente. Grazie. A parte il denaro, Alberto, qual è la difficoltà più grossa che hai incontrato? Ma la difficoltà o che avete come comitato? Che, sì. Adesso non posso parlare per il comitato, perché il comitato era sì. un contesto, allora, tu, di persone, ecco. per la maggior parte autorevoli, okay. Ma e a me la cosa che più ha pesato è stata la difficoltà di tenere in equilibrio due cose. Cioè, da un lato il compleanno di un risorgimento lontano, per il quale si fa molta fatica ad emozionare le nuove generazioni. Dall'altro, il secondo elemento di equilibrio, la storia di questi 150 anni, che rappresenta un grande buco nero nella nostra vicenda. C'è una cosa a cui sto riflettendo in queste ore, con grande preoccupazione. E al di là della scelta più o meno folle di andare a bombardare la Libia, sì. Il nostro è l'unico paese che non poteva farlo, perché noi siamo stati potenza coloniale in Libia, come se gli inglesi bombardassero l'India. Lo possono fare in tanti, ma non lo possono fare gli inglesi, noi non lo possiamo fare in Libia, perché siamo stati protagonisti di una guerra crudele, crudelissima. Noi abbiamo arredato il lungomare di Tripoli, di Bengasi, di impiccati 100 anni fa. E dunque non siamo quelli che hanno titolo per poterlo fare. Questo non è accaduto, non c'è, per una ragione molto semplice, che nessuno di noi si percepisce come una potenza coloniale. Noi abbiamo gli occhi pieni di film con i cattivi soldati inglesi che sparano sugli indiani inermi, ma non abbiamo minimamente memoria né visiva né culturale né storica di quello che è stato ed è accaduto. E la terza cosa difficile da tenere in equilibrio era quello che questa non dovrebbe, speriamo, essere il funerale dell'Italia. Cioè c'è una nuova generazione che vivrà i prossimi 50 anni, quando io di sicuro avrò tolto il disturbo. Da questo pianeta. E alla nuova generazione cosa gli si dice per essere italiani? Perché loro non possono mica fare i cospiratori come Mazzini, neanche le spedizioni come Garibaldi e roba di questo genere. Allora, qual è la chiave del loro futuro, la chiave con la quale essere italiani presenterà un vantaggio? È la domanda che ti avrei fatto. Per me la chiave è quella di riflettere un po' sulla nostra storia nazionale, al di là appunto del retorico un po' fascistoide, della lingua che ci unisce. Abbiamo una lingua che è rimasta uguale perché non la parlava nessuno. Se noi oggi possiamo leggere Petrarca e perché è una lingua che non ha parlato nessuno, e dunque è rimasta ferma, fermina, libella e immobile. Ma noi, quando siamo stati il centro del mondo nel 400, lo siamo stati sulla base di una grande idea dell'uomo, di una grande cultura, e quando noi siamo riusciti ad essere una componente di successo nel concerto internazionale, è stato sulla base della nostra cultura, talmente profonda che è diventata anche una cultura industriale, è diventata design, è diventata moda, è diventata invenzione, è diventata scienza. E allora, in questo momento in cui noi pensiamo che risparmiare un euro sulla benzina di un'auto blu e risparmiare un euro sulla borsa di dottorato siano lo stesso euro, facciamo l'errore più grave che potessimo fare, il crimine più grosso. Sei stato chiarissimo, Alberto. Io devo dare la linea al GR, però sei stato veramente molto chiaro e ti ringrazio. Buona domenica. Grazie, Alberto Melloni, storico e appunto parte del Comitato dei Garanti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il riposo del guerriero. Le 11:08 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Continuiamo a parlare dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo divisi in tutto, anche sul sesso, nel senso che tutti i messaggi che arrivano da donne parlano di ho appeso il tricolore, sono andata in piazza, ho cantato l'inno, eccetera. Tutti i messaggi che arrivano da uomini dicono ma quale Italia, quale unità, di cosa stiamo parlando? È incredibile, siamo veramente ancora una volta divisi. È proprio vero, siamo un paese che ama le squadre, il tifo da una parte o dall'altra. Professor Franco Monteleone, buona domenica. Buona domenica a voi. Buongiorno. Professore docente all'Università di Roma 3, insegna storia e linguaggi della radio e della televisione. Lei è autore anche di numerosi testi, uno per tutti, Storia della radio e della televisione in Italia, edito da Marsilio qualche anno fa. Allora, professore, io di questo voglio parlare perché, e questo lo possiamo dire però, che la radio e la TV ci ha uniti, ha fatto un po' gli italiani, o mi sbaglio? Certamente, perbacco, è una delle istituzioni che di più ha lavorato per unire gli italiani, secondo me, ma non solo secondo me. Ecco, tra l'altro era proibita ai civili, leggevo, con una legge del 1900, fino al 1910 forse, dopo invece ha potuto essere usata perché no, si sono accorti della sua potenza per comunicare. Non direi di andare così indietro, il 1910 è soltanto l'anno in cui venne emanata la prima legge di regolamentazione delle frequenze, sì, che stabiliva un principio fondamentale, l'attribuzione naturalmente allo Stato dell'utilizzazione delle frequenze etere, ma la radio nasce nel 24, siamo proprio in un'altra epoca. 6 ottobre 24. Esattamente. Cosa è successo da quel giorno in poi? Sì, ma io non direi, se mi permette, sì, come no, visto che dobbiamo legare la celebrazione dei 150 anni con l'evento radio televisivo, non sì, direi di andare così lontano, perché poi la radio ha cominciato a occuparsi di programmi in senso vero e professionale soltanto negli anni 30. Molto più tardi, certo. Comunque direi che la prima cosa che va detto, anche così volendo scremare anche a grandissime linee quanto di risorgimentale, diciamo così, si può cogliere in circa 90 anni ormai di programmazione radiofonica e televisiva, innanzitutto va stabilito un confronto quantitativo, secondo me, un confronto dal quale si rileva che la quota di programmi dedicata al nostro risorgimento è per la radio quasi inesistente, quindi proprio assolutamente siamo a poco più di zero, e per la televisione è concentrata soprattutto nei primi 20 anni di esercizio della televisione. E questo secondo me ci dice molto, il fascismo non poteva essere così entusiasta del risorgimento, non lo è stato, il mito radiofonico, il mito celebrato alla radio nel regime era il mito naturalmente della marcia su Roma, della nuova Italia, era il mito romano, era il mito dell'impero romano al quale il regime si rifaceva, il mito delle colonie, della conquista coloniale, il mito della grande guerra. Quindi nella programmazione radiofonica della radio fascista il coinvolgimento non ha praticamente spazio, se non in alcune radio di trasmissioni per la radio per le scuole, ma insomma roba marginale, in alcune conferenze che venivano fatte allora da storici anche abbastanza, come dire, sussiguosi. Nel dopoguerra cosa vuole il Risorgimento? La Democrazia Cristiana aveva interesse soprattutto a fare del paese una nazione nuova, moderna, e quindi, come dire, la radio italiana, la radio del dopoguerra, è una radio che segue la prima modernizzazione dell'Italia. Le sinistre avevano soprattutto interesse a vedere la Resistenza, il nuovo Risorgimento. Quindi la celebrazione d'Italia 61 fu una celebrazione importante, ma fu una celebrazione tutta rivolta, completamente diversa, questa è una cosa che non ha detto nessuno, completamente diversa nel tono, nel tipo di celebrazioni, nelle iniziative, da quella che è stata messa in campo adesso. Era la celebrazione d'Italia 61, una celebrazione tutta relativa alle conquiste economiche dell'Italia, alle conquiste sociali, alle conquiste economiche. L'Italia in quel momento è un'Italia che come dire, è nel pieno del miracolo economico, quindi nasce per quello che riguarda la televisione, per esempio, nasce il secondo programma. Lì vediamo per esempio che nei 20 anni successivi invece è la televisione che celebra realmente, con tutta una serie di iniziative, adesso non posso qui enumerarle tutte, certo, ma naturalmente dall'Alfiere a 800 tratto da Salvatore Gotta, alla Luisa San Felice, alla Vita di Cavour, alle Mie Prigioni, l'eredità della Priora con una straordinaria Lida Valli, la Contessa di Castiglione, eccetera, eccetera, fino alla stupenda serata Garibaldi di Beniamino Placido, che credo ancora molti ascoltatori ricorderanno. Quindi è la televisione, ma in questi 20 anni, diciamo così, negli anni 70, sì, negli anni 80, quindi in un momento forte della programmazione della radio pubblica, della televisione pubblica, la radio anche nel dopoguerra, fino ad oggi, praticamente non ha avuto nessuno spazio, incredibilmente anche nei radiodrammi che si facevano negli anni 60, 50, 60, 70, non c'è spazio, non c'è notizia, diciamo, particolarmente rilevante di celebrazioni del Risorgimento. Adesso c'è stata un'iniziativa di cui vorrei parlare, perché secondo me è un'iniziativa curiosa e anche utile dal punto di vista della documentazione. Allora, guardi, professor Monteleone, dobbiamo dare gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di questa iniziativa. Il riposo del guerriero. Ecco, professor Monteleone stava raccontando un'iniziativa. Sì, l'iniziativa secondo me è molto interessante, proprio a proposito del rapporto tra televisione e celebrazione dell'unità. Sì. Le audio-videoteche della RAI, cioè gli archivi della RAI, che conservano naturalmente tutti gli archivi, un archivio straordinario, un vero bene culturale, la conservazione di tutti i programmi radiofonici, tutti i programmi televisivi realizzati dal servizio pubblico, ha prodotto un fascicolo, se ne è occupato in particolare il dottor Nespolesi, il direttore della biblioteca della RAI, un fascicolo di estremo interesse che ripercorre tutti i programmi televisivi che si sono occupati di Risorgimento. È stato un piccolo contributo, ma secondo me significativo, dato dalla RAI a questa celebrazione. È un catalogo ricco anche di molte fotografie, con tutta una serie di indicazioni, di registi, di attori, di trame, eccetera, dal 54, da quando inizia il servizio la televisione, sì, a oggi. E da lì si vede, e da lì che ho tratto anche questa indicazione di tipo di statistico, diciamo, certo, così, che sono i primi 20 anni della televisione che danno un contributo reale a questo, come dire, a questo afflato celebrativo del, del Risorgimento. Certo, quando invece si poteva pensare fosse il contrario, insomma. Quando si poteva, invece, si vede, diciamo, da uno studio attento, da un'analisi attenta, si vede che effettivamente la televisione non ha dato granché da questo punto di vista. Ma forse non è un caso, insomma, forse non è un caso. La televisione in particolare ha celebrato il Risorgimento in un momento in cui è in crescita. La mia tesi, che ho anche sostenuto in altri contesti, la mia tesi è che si è trattato di una questione di politica industriale. Nato il secondo programma, c'era un bisogno da parte della RAI, era già la RAI di Bernabei, quindi una RAI molto intelligente, di connotare la propria programmazione con prodotti di grande appeal, e quindi lo sceneggiato. Certo. Sceneggiato anche proprio in quegli anni, e all'interno della programmazione degli sceneggiati c'era anche il mito del Risorgimento. Chiaro, perché era un'argomentazione interessante per scrivere dei testi e raccontare, anche perché c'erano, e raccontare quindi qualcosa che avrebbe potuto interessare il pubblico. La sentiamo malissimo, tra l'altro, al telefono in questo momento, professore. La ringrazio molto, le auguro buona domenica, ovviamente. Grazie. Professore, buona domenica. Ho pochissimo tempo, ma volevo salutare almeno Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Scusa, abbiamo pochissimo tempo, ma sono tante le cose da dire. E allora con te, Francesca è la nostra glottologa dell'Università di Roma, Tor Vergata, e per riuscire a dire due battute sulla lingua italiana. Beh, radio e televisione hanno contribuito molto, in particolare la televisione, no? In questo senso. Beh, senz'altro, in particolar modo alcuni tipi di programmi hanno avuto un ruolo senz'altro decisivo nell'elaborazione di un modello di italiano condiviso in tutta quanta la penisola. Io però, se posso, vorrei brevemente proporre un punto di vista differente, partendo da linguista, proprio dal... Sai che mi piacciono i punti di vista differenti, vai. Beh sì, complementare. Certo. Mi concentrerei proprio sull'aspetto semantico della parola unità, perché l'unità è una condizione, una caratteristica di ciò che è unico in quanto singolo, ma anche al tempo stesso una condizione o una caratteristica di ciò che, pur essendo formato da varie parti, costituisce un tutto unitario. Allora, questa definizione, che in qualche modo ho ripreso dal grande dizionario della lingua italiana di Battaglia, ci dà l'idea di come al tempo stesso si possa guardare alla lingua in maniera sintetica, quindi con uno sguardo complessivo, uno sguardo da colpo d'occhio che da lontano ci permette di vedere un qualcosa che si presenta omogeneo, uguale a se stesso, ma al tempo stesso, cambiando la prospettiva e quindi guardando questo elemento da vicino, si presenta come variegato. Articolato ed è quello che capita a chiunque voglia guardare all'italiano. Da lontano abbiamo l'idea di un italiano, della lingua con la maiuscola, da vicino invece abbiamo una frammentazione in varietà e sottovarietà. Ce l'abbiamo anche degli italiani, figurati, quindi. Esattamente, la spaccatura, la frammentazione socioculturale è riflessa dalla lingua. Del resto, chiaro, i fattori socioculturali insieme a quelli geografici sono tra i principali alla base della frammentazione linguistica. Certo. Francesca, ma in questo, per celebrare questi 150 anni, l'italiano a quanto ci servirà? Cioè, ci sta dividendo oggi come oggi quello, o ci sta unendo anche nelle sue diversità? Ma ci sta dividendo probabilmente il fatto di non avere più una competenza su tante varietà dell'italiano. Questa è una cosa di cui abbiamo già avuto modo di parlare. E se partiamo dal fatto che la parola nazione, dal latino nazio, connesso con il verbo nascor, quindi il verbo nascere, viene utilizzato per indicare tutti coloro che, essendo nati nello stesso posto, condividono le stesse abitudini e dunque anche la stessa lingua, se guardiamo a questo fatto diventa un punto tutt'altro che coesivo la mancanza di padronanza di registri comuni, trasversali, quanto quantomeno dominiamo varietà in comune di lingua, tantomeno abbiamo modo di poter comunicare, trasmettere informazione, emozione, quindi diventa un fattore ostacolante. Ecco, quindi insomma, io volevo così fare tutta una puntata dedicata al sorriso, all'energia, per far sentire tutti più uniti, eccetera. Invece, a quanto pare, è veramente difficile per un motivo o per l'altro, anche per la lingua. Però ce la faremo. Grazie, Francesca. Ciao. Grazie a te, buona certo. domenica. Ciao. Sì, era in apprensione, Francesca, perché era agitata. Allora, c'è il momento, vediamo se almeno questo ci unisce, va. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta il gastronauta. Senti Davide, io faccio una pasta pesto e pomodoro, così bianca, rossa e verde, e metto tutti d'accordo. Almeno su questo c'è un accordo, un'unità sul... no? Ciao Davide, no, buongiorno. Assolutamente. No, assolutamente. Niente, neanche questo. No, io ho proprio scritto questa mattina sul Sole... sì. Una 10-100 cucine, però attenzione, cioè, questa è la forza, questa diversità, e poi arriverò all'unità, perché da questa diversità è come diceva l'unità. Francesca prima, no? È proprio questo, La forza del nostro paese, almeno in cucina, io sto parlando di questo ma anche in tanti altri settori, è proprio questo di avere questa diversità da un chilometro all'altro, ma c'è un minimo comune denominatore ed è la pasta. Perché sicuramente ci sono paste di forme diverse, di ripieni diversi, di condimenti diversi, però in fondo è quella cioè che ci unisce. Se tu parti dalla Sicilia con un raviolo, con un tortello e arrivi in Piemonte, vedrai che lungo questo itinerario può cambiare la forma e può cambiare anche il ripieno, però in fondo rimane che è una pasta e che è fatta magari fatta in casa con acqua e farina, e sale, è la cosa stupenda, mentre se vai in Francia c'è una cucina nazionalistica centralizzata e sicuramente completamente diversa. Io non voglio dire che c'è una cucina federalista, perché si potrebbe cadere poi nel politico, sì. Però sicuramente andiamo al di là, perché ce ne sono, cioè, se tu vai in Emilia, ad esempio in Emilia Romagna, il ripieno e la forma della pasta cambia di chilometro in chilometro, però in fondo rimane pasta. E anche secondo me la sequenza delle portate in Italia è, c'è un antipasto, c'è una pancia, un primo, c'è un secondo, c'è un dolce, è quasi si trova quasi dappertutto. Ma secondo me questi sono grandissimi punti di forza e non sono punti di debolezza, e quindi dobbiamo esserne fieri di essere diversi, ma di essere uniti sul discorso della pasta. La diversità te la do anche da un altro aspetto, la carne, i tagli di carne. Ebbene, ogni provincia italiana, diciamo che il taglio della carne è diverso e i nomi sono diversi, in molti casi dello stesso taglio. E tu pensa che l'unico taglio che è chiamato ovunque, dalla Sicilia fino al Trentino, fino su in alto, è il filetto. Il filetto si chiama ovunque allo stesso modo, tutti gli altri cambiano. Ecco, anche questo, torniamo al linguaggio di cui parlavate prima, 1-10-100 se vogliamo dialetti, 1-10-100 tipologie di cucina. Certo, ma quindi allora concordi con me comunque che la pasta resta il punto fermo. Io adesso inventavo un pomodoro e pesto semplicemente per avere i tre colori della bandiera, ecco, però l'unico elemento è proprio... La pasta come metafora. Esatto, esatto. Se invece tu così dovessi preparare una cena, ecco, per il 150esimo, hai degli ospiti a casa, mi dici quale sarebbe il menù, compreso il vino ovviamente. Ma sai, difficile. Partiamo dalla pasta, probabilmente, anche se quello che ti dirò è un piatto forse orientato al sud Italia, però ormai è diventato nazionale. Spaghetti, pomodoro e basilico. Beh, esatto, preciso, va bene, ci siamo. Spaghetti, pomodoro e basilico sicuramente è un piatto ormai generalizzato. Assolutamente sì. Per secondo c'è anche il pollo, che più o meno viene fatto in maniera, cioè il pollo in casseruola o al tegame o d'altro. Anche questo varia, perché da qualche parte ci metti il pomodoro, altre parti ci metti la patata o d'altro, ma anche questo secondo me ormai è un qualcosa di generalizzato, insomma, quindi si può trovare ovunque. E poi arriviamo al dolce, qui ti frego perché io ti dico il panettone. Io avrei detto il tiramisù, ovviamente, perché sai, gli stranieri ordinano sempre il tiramisù, quello è il dolce italiano per eccellenza. Non so se sia così, però. Ma il tiramisù, innanzitutto il tiramisù è localizzato a Treviso, che si chiama Tiramisù, sì, quindi è di una città. Il panettone ormai è di tutti, perché la lievitazione, il lievito madre ormai sono generalizzate, e vi dirò di più che ci sono moltissimi bravi pasticceri al sud che fanno dei panettoni ormai straordinari. Poi c'è il panettone tutto l'anno, non dimentichiamolo, non mi toglie questa. No, te la tolgo assolutamente. Questa cosa. Beh, se andiamo sul vino sì. Mi metto in difficoltà. Lo sapevo. Scelta perché torniamo ai vari territori, sai, non c'è un vitigno, nazionale, certo. Ci sono una serie di vitigni nazionali, e uno può essere il Nebbiolo perché comprende una serie di regioni. Tra l'altro il Nebbiolo, e molti non lo sanno, il Nebbiolo è diffuso anche in Sardegna, non solo in Piemonte e parte della Lombardia, ma anche in Sardegna, quindi c'è un collegamento tra nord e sud. In Sardegna si trova un ottimo Nebbiolo in alcune zone, specialmente in Gallura, che sono retaggio appunto dell'Unità d'Italia, quindi ante Unità d'Italia. Ma quello potrebbe essere anche il Sangiovese, è un altro vitigno che è abbastanza diffuso in Romagna, in Toscana, ma si trova anche in Abruzzo, si trova nelle Marche. Quindi ci sono due o tre vitigni che sono più diffusi degli altri, però se ti dovessi trovare un vino nazionale... Ma no, sarebbe impossibile, ovviamente è una provocazione. La verità è proprio questa, che ci unisce il primo, il secondo, il dolce e il vino a tavola. Ecco, questa è davvero la caratteristica. A meno che non venga fatto un uvaggio particolare dentro, ma non mi risulta che ci sia un uvaggio in questo. Magari qualcuno ci potrà pensare, visti i 150 anni, poi assaggeremo se sarà buono o meno. Magari no, però. Può darsi che qualcuno ci pensi. Vediamo così. Magari un tempo era la gazzosa che si trovava un po' dappertutto. Ecco, un po' sì, è vero. Mettiamo anche la c'è anche quella, è tornata anche a essere prodotta, pare come una volta, meno da qualcuno. Grazie, Davide, Goretti la domenica. Ciao, buona alla giornata. Ciao, grazie, ciao. Sicuramente. Prepariamo la nostra tavola, la vostra sicuramente. Tra poco ci saranno anche 1.000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it. Adesso le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Ci sono 1.000 euro qua sul tavolo per voi, io sono pronto a darveli. Un mistero in 24 minuti. Beh, certo, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in questi 24 minuti. La risposta può essere un personaggio, una notizia oppure qualcosa che ci appartiene, e per arrivare alla soluzione ci sono degli indizi musicali. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Siamo a 1.000 euro e questo è il primo indizio. Sono passati 40 anni, però si ascolta sempre molto volentieri. Sono i Pink Floyd, Never Breaking the Wall. Giuliano, buona domenica, ciao. Ciao, buona domenica. Allora, questo è il primo indizio che può essere tantissime cose, in effetti. Quindi ne chiedo un altro. Quindi andiamo subito a 500 euro, non ci provi per i 1.000? No. Però un indizio generico non mi dice niente, sinceramente. Guarda, allora, dai Pink Floyd... di The Wall passiamo è proprio un salto, cioè proprio, ma un salto più grosso non può essere fatto. Ecco il secondo indizio. È tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Giuliano, vabbè, insomma, siamo lontani dai Pink Floyd come genere, ovviamente, però gli anni sono gli stessi, ecco, per cui comunque parliamo di 40 anni fa, e devo dire che Raffaella Carrà, con questo gesto e questo balletto che era particolarmente osé e questo ombelico mostrato, ha rivoluzionato un po' anche il modo di fare televisione in Italia. Giuliano, questo è il secondo indizio, siamo a 500 euro, la tua risposta. Il Tuca Tuca. Provo con la proposta di fare un concorso parallelo, d'Italia con le sportive. Ecco. Sei stato chiarissimo e grazie Giuliano. Buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Allora, Giulio da Udine. Giulio da Udine. Un nome fortunato oggi a quanto pare. Allora, sì. Giulio, due indizi li abbiamo ascoltati. Sì, guarda. Ma hai ballato un po' il tucatucca qualche volta? No, no, mai. Vabbè. Direi. Puoi anche chiedere un altro indizio se vuoi, altrimenti puoi anche dare una risposta. Guarda, io provo il terzo indizio. Ecco, allora scendiamo a 300 euro. 15 anni, 15 anni, 15 anni. Poesia di un'età che non ritorna. Una sigaretta, un prato e le canzoni. I padroni del domani, 15 anni. Allora Giulio, io ti sfido a ricordarti chi cantava questa canzone. La sfida è vinta. Vabbè. Quanti, senti, a me, quanti anni hai, Giulio? Scusami, quanti 39, anni hai? 39. No, eri troppo piccolo. Questa canzone è del 76, racconta chiaramente cosa si vive a 15 anni, no? Andavi a studiare dall'amichetta, poi in realtà non studiavi per niente. Allora, loro erano i vicini di casa. I vicini di casa? Sì, si chiamavano così. Sono durati tre anni, quattro, poi sono spariti. Comunque sì. Allora. Giulio, ecco che c'è la moglie, ecco che sta suggerendo, sì, perché i vicini di casa. Sì, a me è venuto in mente che Guccini sta da 15 anni con tale Raffaella con cui si sposa, però. So che non è molto giovane, in effetti 15 anni sono. Va bene, grazie, grazie Giulio, grazie, buona domenica, grazie, ciao. Claudio, buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Eccoci qui. Allora Claudio, io direi di dare gli aggiornamenti sul traffico, tanto sono già pronti, e dopo così intanto pensi a una risposta possibile o se vuoi anche un altro indizio, rimani lì. Un mistero in 24 minuti. Eccoci qui, Claudio. Allora, sì, tre indizi. Buona domenica ancora a te. Io mi butto. Allora, ti butti. Aspetta, ascoltiamo, allora ascoltiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Si chiama Tuca Tuca Tuca. Ti ricordi più i nostri 15 anni? Ti ricordi i tuoi 15 anni, Claudio, tu? Vagamente, sono convinto di averli persi da qualche parte. No, li hai fatti e come? Qualcuno se li ha rubati. Niente da fare, ci sono stati. Però il tempo passa. Sì, purtroppo passa. Allora, I Never Breaking the Wall, Pink Floyd, il Tuca Tuca della Carrà e i 15 anni dei vicini di casa. La tua risposta? Io direi la vittoria dell'Italia contro la Francia a rugby nel Sei Nazioni. Te l'aspettavi? No, sinceramente no, però... Però ci speravi, tutti lo siamo stati, infatti... Con un po' di giovinismo italiano contro gli giovinisti francesi... Ci vuole, assolutamente. Bravo Claudio, grazie Prego. Per la tua risposta. Ciao. E anche a quella, credo, della moglie, perché io sento sempre delle voci, poi dei suggerimenti, spesso femminili. Enrico, ciao, buona giornata. Pronto? Ciao Enrico. Sì, ciao. Anche tu hai una fidanzata, una moglie, qualcuno dietro che ti suggerisce la risposta? Sì, siamo tutti in famiglia. Lo sapevo, il gioco funziona proprio così. Il bello è questo, no? Bisogna mettere insieme le forze. Allora, Enrico, sì. Non litigate sulla risposta, ma che cosa vuoi fare? Altri indizi oppure no? Devo dirti la verità. Non mi ricordo la domanda. La domanda non c'è, nel senso che i tre indizi li abbiamo già fatti ascoltare, tu dovresti arrivare a una risposta. Siamo a 300 euro, se non ti ricordi gli indizi posso farteli riascoltare, ma non puoi chiederne uno nuovo in questo caso. Quindi bisogna sparare un qualcosa. Allora, una notizia della settimana oppure un personaggio. Vuoi sentire i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento? Va bene. Eccoli qua. Si chiama Tuca Tuca Tuca. sono i Pink Floyd di Another Brick in the Wall, Raffaella Carrà con Tuca Tuca e i vicini di casa con 15 anni. Enrico, la tua risposta, una notizia oppure un personaggio? Ah, la notizia della settimana poteva essere la grande festa dell'Unità d'Italia, non so, 15, 150. Beh, in effetti non ci sta male, hai ragione, basta mettere uno zero e poi si otterrebbe il numero. Potrebbe stare. Potrebbe starci. Enrico, lo scopriremo solo al 24esimo minuto, se la risposta dovesse essere questa, 300 euro sono per te. Ciao, grazie. Va bene, grazie e buona giornata a tutti. Barbara da Roma. Buongiorno. Ciao Barbara, hai festeggiato? Sì, ovvio. No, ovvio non è così scontato, Però siccome ho scoperto che tutte le nostre ascoltatrici hanno festeggiato e i nostri ascoltatori molto meno, e allora io mi sono buttato, no? Chiederemo poi al prossimo ascoltatore invece cosa ha fatto. Allora Barbara, cosa vuoi fare? Abbiamo tre indizi già svelati. Sì, però io proprio non ho idea. Vuoi perché... Come? Vuoi ascoltarne un quarto? Scendiamo a 200 euro. Non ho capito, scusami. Dico sì, proviamo ad ascoltare un altro indizio. Eccolo qui. Questa è invece una canzone di Mina. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Eccoci qui, questo era il quarto indizio. Barbara. Sì, purtroppo non ho proprio nessuna idea. La tua risposta è nessuna idea. Sì, purtroppo sì, proprio. No, non mi viene in mente, forse perché sono comunque molto giovane, quindi No. Guarda che no, non è un problema esserlo. No. Assolutamente no, anzi. No. Barbara no. No, potresti arrivarci molto. Serenamente. Grazie a te. Ciao, mi dispiace. Che rabbia. Mauro da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Tu hai festeggiato, Mauro? Certo, meno male. No, nel senso, voglio dire, vedi un uomo, allora, cioè, no, perché ribadisco. Andate a teatro e a giro per la città di Firenze. Hai fatto così, bravo. Senti anche come si sente che sei fiorentino. Questo un po' mi spiace. No, invece a me per niente è bello, come no. Allora, senti, io avevo delle idee quando ho sentito Pink Floyd con The Wall, pensavo alla centrale, alla crepa che si è aperta nella centrale. Nucleare, all'obsolescenza, gli anni, però ho capito poi che forse sono fuori strada. Ma sai che poi il riposo del guerriero tende sempre a evitare, no? Cioè, la domenica cerchiamo proprio di, quando possiamo, già abbiamo la Libia, tra pochissimo gli aggiornamenti con il GR, quando possiamo pensiamo per un attimo, ecco, ad altro. Bene, grazie. E quindi non hai altre risposte? No, evidentemente niente. Io privo di idee come gli altri. Che rabbia, grazie Mauro, ciao, buona domenica. Che nervoso. Irene da Palermo, ciao. Sì, ciao. Ciao Irene, buongiorno. Allora, non è molto facile, Sai che, Irene, sai che proprio non posso dire, io non posso dire niente, ma vorrei dire una cosa. No. E intanto lo devo dire perché sta scadendo il tempo, per cui posso dirlo. Irene, hai una risposta? No, veramente no. Hai un aiuto da potermi dare? No, sarebbe un indizio, ma non c'è più tempo per l'indizio. Un piccolo aiuto? Vabbè, ci proviamo. Dai, ci proviamo. Sì, sì. È una notizia. È una notizia. Pubblicata non solo dai giornali. Mamma mia. Irene. Sì, mi sto consultando. Non ce la possiamo fare, ma sai perché? perché oggi era così difficile che in realtà un vincitore ce l'abbiamo già. Grazie Irene, ciao, buona domenica. Grazie. La musica è per Giulio. Ciao Giulio. Ciao, ciao. Adesso però mi passi tua moglie, perché la risposta non è tua, io lo so, è tua moglie che te l'ha detta sta risposta, sì, qua. Te la passo. Adesso me la passi, non voglio parlare con te. No, guarda un po', diamo a Cesare quel che è di Cesare, ho capito. Ok. Ce l'hai lì vicino? Sì, è qua. Pronto? Chi è? Pronto. Come ti chiami? Ciao. Ciao, mi chiamo Sara. Ecco Sara, perché i 300 euro sono tutti tuoi, la risposta è proprio questo, Francesco. Eh certo, Francesco Guccini si sposa a 71 anni e The Wall, perché in The Wall si parla di insegnamento, sono... Senti... Bene. Sono tutte e due professori, poi il tuca tuca perché mi piaci, e sono proprio 15 anni che sono insieme, come avevi pensato tu, esatto, e poi devi dirmi di sì perché alle nozze si deve dire di sì, spero che ovviamente sia così. Ovviamente sì, va bene. Bravi, bene. E complimenti. Grazie. E non dare neanche un centesimo a tuo marito, perché solo per amore lo puoi fare e basta. Oh, perché... Veramente, non glielo do, le sei potute per me. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie davvero, ciao, a tutti. A Luca Rinaldi, redazione, Claudia Carusi in assistenza, Paolo Correoni in regia. A voi tutti per l'ascolto. Ci sentiamo domenica prossima alle 10. Buona domenica da Stefano Gallarini.